ieri la situazione era tranquilla, per quanto può essere tranquilla una situazione del genere, quindi comunque con nervosismo e non comprensione delle decisioni prese da parte del governo, cioè insomma lì l'equipaggio, gli Asbirden non riescono bene a capire cosa stia succedendo. E principalmente questi 37 ragazzi che sono rimasti presi in questo contenzioso fra il governo e l'ONG Capo Nauru, e che però sono lì e quindi soffrono di tutti i disagi psicologici che una situazione del genere può comportare. Stanno abbastanza bene, e ieri ce n'era uno che è stato visitato da un medico e aveva qualche problema, qualche sospetto, per cui andava seguito, monitorato, insomma c'era qualche possibilità di doverlo seguire con più attenzione. Stamani però c'era un medico pronto ad andare con la capitaneria di porto, ma Elias Birdel dalla nave poi ha detto che invece questo ragazzo sta rispondendo alla terapia e che sta meglio e che quindi non c'era bisogno del medico e quindi non ha chiesto di avere il medico a bordo. Ci sono le autorità competenti, quindi il prefetto sicuramente che sta seguendo la situazione con attenzione, le capitanerie e tutte le persone coinvolte. A questo punto le persone del Capo Nauru, dell'ONG Capo Nauru, pongono il problema dell'accoglienza di queste persone, perché Elias ieri ha fatto una conferenza stampa con i giornalisti che erano a bordo e ha detto che usava anche se dovesse aver violato qualche regolamento, qualche cosa, non era nelle sue intenzioni di farlo, per cui se ne scusava, però a questo punto loro sono lì con queste persone a bordo e la situazione deve trovare una soluzione.